Alessandra, oltre che ad abbinare gli alimenti tra loro, il segreto del buon umore sta anche nel prenderci un po' meno sul serio. O se vogliamo tradurla in altro modo, prendercela un po' con un po' di ironia o forse autoironia. Certo, ma sì, come dico spesso nei miei laboratori, io faccio fare un esercizio, poi ne parleremo, molto utile, che è quello di parlare di sé in terza persona, come se si parlasse di un amico o di un'amica e prenderlo in giro. Per cui se parlo di me dico: Alessandra, sì, è una simpatica in gamba, però mamma mia è puntiglioso e sto sempre lì a fare le pulci a tutto. Parlare di sé come di un'altra persona, per guardarsi con distacco, perché il trucco, perché si dice che l'umorismo, la comicità, l'ironia aiutano a vivere meglio, a stare meglio, perché permettono un distacco sano nel momento in cui siamo calati nel nostro dolore, nel nostro pathos, nella nostra sofferenza e spesso autocommiserazione. Non riusciamo a vedere anche gli aspetti divertenti anche di noi stessi, i nostri lati buffi, e imparando invece a sorriderne e a sorridere anche delle nostre tragedie con 3G, riusciamo anche a stare meglio, a prendere appunto un po' di distanza e a sorridere di quello che fino a un momento fa. Un esempio: quando noi raccontiamo una disavventura, una cosa brutta che ci è capitata, al momento mentre la viviamo ci vengono dei moti di rabbia, dei sorci verdi, i capelli dritti. Quando la raccontiamo riusciamo a riderne. Mi sono svegliata stamattina, c'era sciopero dei tram, sono uscita, piove, non avevo l'ombrello, e via via. Se la racconto con un certo distacco, perché magari mi è successa ieri, immediatamente vedrò che poi non è successo niente di così drammatico. E poi soprattutto usiamo la terza persona. Questa è la sfida di oggi. Mm-hmm.